Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Ma come ogni giovedì partiamo con la sigla d'apertura di questo programma. Eccoci qua dopo la sigla iniziale per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, e siamo come sempre appunto ho detto in diretta oggi 26 settembre 2024, andremo avanti fino alle ore 21:30 e ora andiamo all'ascolto. Prima di dirvi che andremo all'ascolto, anche se siete già all'ascolto di questo programma, volevo ricordare che grazie al gruppo antirepressione qui dei Friuli e Trieste, che grazie a questo gruppo il programma va avanti. Ora ci ascoltiamo i 20 Minutes, che è una band di Domodossola, dal loro album Crawl, che è uscito l'anno scorso, ovvero nel 2023. Sì, un saluto anche da parte mia. E allora iniziamo col fare così un breve una sintesi, diciamo, degli argomenti che affronteremo questa sera. E per chi ha ricevuto la promo, è una puntata, diciamo, distopica, nel senso che abbiamo pensato di riprendere un po' i ragionamenti e così durante lo scorso giovedì sul decreto legge, decreto sicurezza, appunto 1660, e collegandolo però poi anche a collegando questa distopia così che ci troviamo a vivere e che non accenna a mitigarsi, anzi, e ha invece la necessità di lottare, appunto, di lottare per continuare a lottare. Quindi riprenderemo un po' questo, poi parleremo del disciplinamento all'interno dell'istituzione scolastica attraverso il dispositivo del voto di condotta, e da qui, ecco, da questa cosa, insomma, poi si svilupperanno altri pensieri, e poi parleremo anche di Sacco e Vanzetti. I'm up your mind. You're changing, but you don't realize it. Go with the flow and wait for the blow. The plan is clear, the path is plain. Build up your attitude, build up your defenses. Set the right mood. And then all of a sudden, the mountain you counted on has crumbled under your feet. Confidence is gone, you miss the beat. We're not afraid to lose the game. We're not afraid, we're not afraid. Ecco, scusate, un classico della diretta, stavo per appunto prendere parola e in quello mi è venuto da tossire. E comunque volevo, ormai il pezzo è già ripartito, ma volevo ricordare che sono questa band 20 Minutes, band di Domodossola, album uscito l'anno scorso, così dopo una band dove il cantante era l'ex cantante di Diserzione, band degli anni 80, e così nel 2023 è uscito questo disco. Bene, buonasera a tutte e tutti voi, anche da parte mia, per questa serata di Zardins Magnetics, questo 26 settembre, 20 e 16 minuti, quasi 17 minuti. Ah sì, è sulle note di questo vinile così rosso fiammeggiante. Partiamo con questo così blocco in voce, che si spera anche ci verrà qualche in aiuto, ecco, che arriva sottofondo. E, sì, partiamo con questo blocco sul voto in condotta. Io adesso non ho approfondito le varie peripezie di questi ultimi, non so, 15 anni, diciamo, anche 20, ma diciamo 15 perché era la riforma Gelmini. Comunque, l'ultima che me la ricordo, questione del voto in condotta, comunque è una declinazione del appunto del discorso così un po' di giro di vite, di nel senso giro di vite che prosegue nella così offensiva repressiva di questo pezzo di mondo qui dove viviamo. L'aula della Camera ha approvato il DDL, revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico, nonché di indirizzi scolastici differenziati. Cosa cambia con il voto in condotta per medie e superiori, che sarebbe secondaria di primo e di secondo grado, e poi c'è anche comunque questioni che riguardano la primaria. La valutazione del comportamento farà media con altre materie, numerica, anche alle medie, cioè alle secondarie di primo grado. Se non si raggiunge quindi il 6, si verrà automaticamente bocciati. Si prevede una casistica dettagliata, dice il notiziario qui. Invece alle superiori, cioè al secondario e secondo grado, nel caso il voto fosse pari a 6, si avrà un debito formativo e si dovrà presentare un elaborato di educazione civica con 5, bocciatura. Il 5 può avvenire a fronte di comportamenti che costituiscano gravi e reiterate violazioni del regolamento d'istituto. E poi il discorso dell'accesso all'esame di maturità: naturalmente il punteggio più alto è escluso nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico, potrà essere attribuito solo se il voto di comportamento è pari o superiore a 9 di condotta. Io adesso ripeto che non sono un esperto, quindi non so com'era precedentemente a questa la situazione precedentemente a questo ultimo, diciamo, ultima riforma Valditara. Allora, questo invece è una dichiarazione di voto di un leghista: la scuola è una comunità educante, chi occupa o devasta una scuola merita il 5 in condotta e la bocciatura alla famiglia deve rispondere dei danni creati dai pargoli, perché è giusto che non sia più la comunità a accollarsi i costi dei ripristini, chi rompe paga. Ecco, dicevamo prima degli elementari, ovvero della primaria, verrà fatta una valutazione, cambiamo però discorso, la valutazione sui giudizi sarà numerica, sarà di nuovo numerica, correlato con descrizioni appunto discorsive. Ecco, quindi in decimi verrà data la valutazione degli apprendimenti. E andiamo alle dichiarazioni del ministro Valditara, di, se non erro, di Fratelli d'Italia, però poi verifico. Legge approvata dal Parlamento rappresenta un passaggio fondamentale, eccetera, di un sistema scolastico che responsabilizzi i ragazzi, restituisca autorevolezza ai docenti. Con la riforma il comportamento degli studenti peserà ai fini della valutazione complessiva e dell'ammissione agli esami di maturità. Cambia l'istituto della sospensione, attenzione, vi sarà più scuola e non meno scuola per lo studente che viola le regole della civile convivenza. Sottinteso, cioè un commento, quindi la frequenza implicito che è una punizione, quindi, perché sospendere la pena, virgolette, che cui si andava in corso con la sospensione era essere esclusi, no, dalla rete, anche dalla rete dei rapporti, insomma, con i compagni di classe, di scuola, ma qui si sottolinea appunto chi viola le regole andrà, gli verrà caricato di scuola, di frequenza, ecco. E poi lui commenta così il ministro il discorso dei voti numerici alle primarie. Nella scuola primaria tornano i giudizi sintetici da ottimo a insufficiente. Boh, sì, se non è numerici o sì, insomma sintetici, ecco, come una volta alle medie, tanti anni fa, molto più comprensibili dei precedenti livelli. Miglioriamo così la comunicazione con le famiglie e al tempo stesso l'efficacia della valutazione, eccetera, eccetera. Ultima sua commento: con la riforma del voto in condotta si ripristina l'importanza della responsabilità individuale, si dà centralità al rispetto, eccetera, eccetera. Allora, considerazione che faccio io, che a me è venuta in mente, a parte sta roba dei voti sintetici, che è come dire chiudiamola qua, non ti sto a spiegare perché per me è così, il tuo apprendimento è così e fine, anche i bambini, cioè la scuola primaria, diciamo, è un accesso il più vasto possibile, non è detto che sì, cioè è la scuola più, diciamo, universale, dove gli apprendimenti sono più come si dice, elementari, e quindi diciamo ha un più vasto tipo di accesso al sapere. E nonostante questo, pensato anche per un modo liquidatorio di il rapporto tra istituzione e famiglie, o insomma genitori o adulti, ma anche bambini stessi, perché sì, i bambini interessa sapere perché hanno preso un voto piuttosto che invece di un altro, capiscono fino in fondo, però vogliono avere un'idea del perché hanno preso un brutto voto, altrimenti poi questa cosa qua la vivono in una certa maniera, la portano avanti con discorsi di segregazione dentro, insomma, le classi, si creano gruppi legati, diciamo, al censo, ai sensi di inadeguatezza, eccetera, eccetera. Quindi un ulteriore passo verso questo tipo di scenario di segregazione, eccetera. Ultima considerazione su questo argomento, 2-3 minuti ancora, che a me ha fatto venire in mente, sono ritornate le questioni, cioè no, si legano queste questioni al discorso che faceva, cioè no, discorso, a quel percorso che ha aperto l'epoca del thatcherismo, Margaret Thatcher, primo ministro di Gran Bretagna tra la fine degli anni 70 fino al 1990, insomma, si era fatta conoscere per questo tipo di impostazione nella gestione delle questioni, di come doveva entrare lo Stato, no? È stata lei ha aperto la strada al neoliberismo. Quindi la sua frase era: "There is no such thing as society", la società in quanto tale non esiste se non come concetto, la società è fatta di persone, sono le persone che hanno doveri, convinzioni e risolutezza, sono le persone che fanno le cose, lasciare le cose alla società significa scappare dalle vere decisioni, dalla responsabilità e dall'azione efficace. Ecco, quindi dietro tutto questo serie di pregiudizi, possiamo dire, c'era perché era il 1988, però è un riferimento costante anche degli odierni dominatori. C'è un'idolatria per i fatti, sono le persone che fanno le cose. Cosa vuol dire? Le persone fanno quali cose? Che cose? Sono supposti nessi logici di causa e effetto, che sono stati già smobilitati secoli fa, sono soprattutto nessi con pretese quantitative, perché io faccio un discorso quantitativo, che ribalto la questione dei doveri sugli individui slegati, isolati dalla società. La società la trasformo in un pregiudizio, in qualcosa che non ha referenti nella realtà, ma soprattutto, appunto, isolo l'individuo dal suo contesto, dai suoi legami relazionali. E qual è l'effetto di questo discorso, di questa retorica? È senz'altro indebolire soprattutto le persone che sono più in difficoltà, e poterle gestire poi meglio nei processi che interessano a costoro, a questi che sono appunto a capo del macchinario. Ecco. Ecco, quindi questo avanzare dell'autoritarismo continuo, sì, inarrestabile a quanto pare, e ci porta a saltare di palo in frasca invece, però non del tutto, e andiamo a, appunto, si diceva anche prima, si accennava a Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. L'anniversario è già passato, era che data era? Fine di agosto, 27 agosto, non mi ricordo, adesso ve lo dico. E esattamente 23 agosto 1927. La vicenda è questa: sono appunto due immigrati italiani negli Stati Uniti d'America durante appunto una delle fasi di repressione del movimento operaio. Ad opera appunto nel ventre della bestia, si diceva una volta, nella capitale del capitalismo, New York City, e comunque appunto viene messo in piedi un processo farsa, vengono condannati a morte questi due compagni anarchici rivoluzionari. Il discorso lo riprendiamo a partire da come era già stato fatto una puntata qualche anno fa, a partire da un testo della compagna anarchica prigioniera Monica Caballero, che aveva scritto questo contributo nel momento, insomma, era in conclusione la settimana di solidarietà internazionale, tutti gli anarchici imprigionati, di appunto del 2021. È un'iniziativa che già da un po' di anni è messa in piedi dalla Croce Nera Anarchica, e quindi ci teneva a rievocare insomma la vicenda di, anche lei, la vicenda di Sacco e Vanzetti, dicendo che ad esempio nel territorio che noi chiamiamo Stati Uniti d'America, nei primi anni del Novecento esistevano diversi gruppi anarchici informali dedicati agli espropri e alla diffusione di idee antagoniste al dominio. Nicola e Bartolomeo parteciparono attivamente a uno di questi gruppi, nello specifico a quello che ruotava attorno al giornale Cronaca Sovversiva. Questi elementi sono stati completamente omessi dalla storia ufficiale, così come è stata omessa la grande solidarietà internazionale che i compagni ricevettero durante l'anno 1927. Ci furono molte manifestazioni di rifiuto in diverse località del processo politico, legale, poliziesco, così come soprattutto attacchi esplosivi in nome di Sacco e Vanzetti. Uno dei più noti fu quello che distrusse il consolato italiano a Buenos Aires. Non è un caso, dice Monica, che coloro che sostengono il potere e i suoi falsi critici usino e modifichino a proprio piacimento la storia relativa a Sacco Vanzetti. Non è la prima volta e di certo non sarà l'ultima. E poi appunto passa a dice che vedo una settimana di solidarietà con i prigionieri anarchici come un'occasione in più per rendere visibile ciò che accade dietro le mura di una prigione. Il carcere per me è solo un altro scenario di confronto che si fa sentire anche nelle cose più piccole e quotidiane. Ok, 94 anni dopo l'assassinio legale degli anarchici Sacco e Vanzetti, niente e nessuno viene dimenticato. Chi lotta contro il potere non cessa mai di essere ricordato. Noi ribadiamo questo concetto e ci leghiamo a quella questione del quantitativo che si diceva prima. Allora, quando lo Stato, anche diciamo in maniera diffusa, fa passare un decreto legge sul voto in condotta e sull'importanza di rispettare le regole, ecco, dicendo che la responsabilità è individuale, che non esistono contesti sociali, non fa altro che portare avanti il discorso quantitativo. Infatti, come avevo prima cercato di accennare, anche noi tante volte, anche noi spesso, anche noi, insomma, anche chi non, no, noi non dovremmo cadere in questa trappola di oggettivizzazione dei fatti, però qualche volta capita, e quindi insomma quello che questo discorso sulla razionalizzazione, quindi sul fatto che gli individui appunto sono responsabili dei loro comportamenti presunti tali, sì, è derivativo, viene dal pensiero scientifico, dalla modernità, no? Da Galileo, eccetera, eccetera, ma è stato ben smontato, demolito in seguito, e non dovremmo cadere insomma in questa cosa qua. Aver chiaro che quando lo Stato, ad esempio, passando appunto, saltando di palo in frasca, mette in piedi un processo, quindi porta due compagni, Sacco e Vanzetti, davanti alla giustizia, non è nient'altro che un espediente, quello lì è un espediente, cioè loro non è che hanno, cioè, loro dicono che hanno delle prove che ricostruiscono la realtà giudiziaria, che hanno le testimonianze, queste qua lo dicono loro, noi da questa parte dobbiamo sapere che quegli elementi lì sono appunto esito di una scienza giuridica che sta nell'altro campo, e quindi appunto, benché l'innocentismo di Sacco e Vanzetti fosse un fatto oggettivo, diciamo, e quindi ingiustamente condannati, portati sulla sedia elettrica, appunto fu coinvolto già, insomma, negli anni 20 furono coinvolti non solo appunto il movimento anarchico, ma anche, diciamo, una vasta area di movimento, quello che era, insomma, non solo operaio, ma anche sì, democratico, diciamo, ecco, anti, in quel senso anti-autoritario, nel senso più vastamente democratico. Quindi dopo, alla fine, insomma, il fatto che se sviluppa questo pensiero, aveva sviluppato questo pensiero Alfredo Maria Bonanno, il fatto che loro fossero anche, cioè che fossero anche innocenti è un'altra questione, ma il discorso è che per il movimento, all'interno del movimento anarchico, che fossero innocenti o che fossero colpevoli non doveva cambiare, perché nel merito, cioè questo era il prezzo da pagare, diciamo, alla collaborazione tra movimento anarchico e movimento democratico. E quindi nel merito, che loro fossero colpevoli o che fossero innocenti non cambiava, erano nient'altro che due compagni eliminati dallo Stato che combattevano. E io direi un po' di musica prima di continuare. Quindi due punti fissiamo, dal discorso che facevo prima. Sacco e Vanzetti erano colpevoli al di là di ogni possibile dubbio agli occhi dello Stato. Perché? Perché erano, lo combattevano, punto. Il secondo invece tema è, ma addirittura anche da un punto di vista giudiziario, evidentemente erano innocenti, nonostante questo sono stati, ma non nonostante questo, sono stati, la conclusione è stata condanna a sedia elettrica, e questo dovrebbe, insomma, essere una conferma del punto 1, no? Evidentemente. Però per essere un po' più convincente e meno così caotico, vado a leggervi da un contributo di qualche anno fa, insomma 7 anni fa, Aspettando l'ora della vendetta, contributo anonimo. Allora, è lo Stato a stabilire cosa, quando e come un fatto possa essere considerato un crimine. È lo Stato che scrive le leggi, è lo Stato che le amministra, è lo Stato che ne stabilisce l'applicabilità, le modifica o le sospende a proprio uso e consumo. L'omicidio è un crimine, a meno che a compierlo non sia un tutore dell'ordine. La strage è un crimine, a meno che a compierla non sia un militare. Il furto è un crimine, a meno che a compierlo non sia una banca. La devastazione è un crimine, a meno che a compierla non sia una multinazionale. Lo stupro è un crimine, a meno che a compierlo non sia un prelato. La giustizia non esiste in sé, né viene incarnata dallo Stato. La giustizia è un prodotto dello Stato e in quanto tale è manipolabile, malleabile, sfruttabile in base alle sue esigenze. Quel 23 agosto 1927 la giustizia non è stata affatto crocifissa, è stata semplicemente applicata. Ad arrostire sulla sedia elettrica non furono due vittime innocenti di uno Stato mal amministrato, da funzionari rimasti sordi davanti agli appelli lanciati da chi li invitava a seguire la retta via, no. A morire furono due nemici acerrimi e dichiarati dello Stato, il quale proprio per questo decise di eliminarli. Sacco e Vanzetti erano infatti due anarchici, orgogliosi di esserlo, entrambi attivi da anni in quel movimento di lingua italiana che negli Stati Uniti ruotava attorno al settimanale Cronaca Sovversiva, animato da Luigi Galleani. Ciò significa che entrambi facevano parte del cosiddetto movimento anarchico autonomo, sostenitore del rovesciamento violento dello Stato, favorevole all'azione diretta e agli atti di rivolta individuale. Con questo giornale e i suoi collaboratori, le autorità statunitensi avevano deciso di scendere in guerra ben prima del 5 maggio 1920. Basti ricordare la perquisizione della sua redazione e l'arresto di alcuni suoi redattori, fra cui lo stesso Galleani, avvenuti nella primavera 17, in pieno fervore patriottardo e interventista nella prima guerra mondiale negli Stati Uniti. Quando il 28 luglio 18 si tenne un incontro tra funzionari del Dipartimento di Giustizia e del Bureau of Immigration per valutare i passi da compiere per neutralizzare i radical alien, i sovversivi di origine straniera presenti sul territorio statunitense, il settimanale di Galleani aveva già cessato le sue regolari pubblicazioni. Va ricordato che fin dal 1903, in seguito all'assassinio del presidente McKinley a opera dell'anarchico immigrato polacco Leon Czolgosz, era stato varato un Immigration Act per bandire gli anarchici stranieri dal territorio statunitense. Cronaca Sovversiva era stata costretta a sospendere le pubblicazioni perché era l'organo dell'anarchismo più battagliero e irriducibile, quello che pubblicava settimanalmente articoli incendiari contro il governo e la sua politica guerrafondaia, quello che diffondeva opuscoli come La salute in voi. Le autorità statunitensi si adoperarono in ogni modo per aprire una vera e propria caccia agli anarchici italiani, fra cui l'uso di infiltrati e ricatto nei confronti di chiunque. Il 24 dello stesso mese, di giugno 19, Galleani e altri anarchici italiani, collaboratori del suo settimanale, furono deportati in Italia. Il 25 febbraio 1920, tipografi anarchici Salcedo ed Elia vennero fermati per essere interrogati in ambito di indagini relative alle indagini agli attentati del 2 giugno precedente. Nel corso della sua detenzione Salcedo tenterà più volte di mettersi in contatto con Vanzetti. Il 15 aprile ebbe luogo la famigerata rapina di South Braintree. per cui venne inizialmente sospettato l'anarchico italiano Mario Buda, a cui la polizia tese una trappola nei pressi di un garage dove aveva lasciato un'auto. Il 3 maggio Andrea Salcedo cadde dal 14° piano dell'edificio dove in quel momento era ospite del Dipartimento di Giustizia, sfracellandosi al suolo. 48 ore dopo, il 5 maggio, furono Sacco e Vanzetti a cadere nella trappola allestita per Buda. Al momento dell'arresto erano entrambi armati e il motivo della loro uscita serale era di natura illegale, forse dovevano nascondere casse di dinamite o di copie di La Salute in Voi. La Salute in Voi è un opuscolo che avevano redatto gli anarchici italiani immigrati, era in italiano, immigrati negli Stati Uniti d'America. Conteneva delle indicazioni, non solo appunto era propagandistico, ma conteneva delle indicazioni su come fabbricare gli ordigni di vario genere destinati a persone che non hanno formazione militare, ecco, a riguardo, e quindi era per diffondere i saperi di attacco a un ascolto più vasto, ecco, che era quello appunto dell'immigrazione italiana super sfruttata negli Stati Uniti d'America. Verranno quindi incriminati per la rapina di South Braintree l'11 settembre 1920. 6 giorni dopo Mario Buda reagirà all'arresto dei suoi due compagni, i migliori amici che ha avuto in America, compiendo il più micidiale attacco contro il capitalismo mai avvenuto sul territorio degli Stati Uniti, fino all'attentato contro le Torri Gemelle, facendo esplodere un carro carico di dinamite nel cuore di Wall Street. Ecco chi erano: il buon calzolaio e il povero pescivendolo, due anarchici rivoluzionari che non rinnegheranno mai le proprie idee, due amici e compagni di lotta di chi aveva osato portare la guerra in casa del governo statunitense. Passano gli anni, questioni procedurali, del processo, i vari testimoni, la giuria, eccetera. Un aspetto presente in Sacco Vanzetti, forse non ben messo a fuoco, è la loro sete di vendetta. Erano pronti a salire sul patibolo, ma volevano anche essere vendicati. Dopo l'esplosione di Wall Street, la vendetta anarchica rimase a lungo immobile, quasi in attesa di vedere l'esito dello svolgimento dei fatti. Ma dopo il 12 maggio 26, quando la Corte Suprema del Massachusetts confermò la condanna di Sacco e Vanzetti, l'impotenza del consenso delle masse divenne chiara a tutti. E ci fu ancora chi passò all'azione. Meno di un mese dopo, il primo giugno 26, sì, mi viene il dubbio che prima ho detto New York, ma forse era Boston. E il primo giugno 26 una bomba esplose nella casa di S. Johnson a West Bridgewater. Purtroppo non si trattava di Simon, lo zelante cittadino che aveva avvertito la polizia facendo arrestare Sacco Vanzetti, ma di suo fratello Samuel. Vedete appunto che tipo di personaggi agivano, appunto, non militanti, non gente dirigenti con chissà che competenze, erano semi-analfabeti, perché sono andati appunto a collocare questo ordigno, purtroppo sbagliando, non verificando chi era, cosa seguiva quell'S puntato Johnson. Comunque, ecco, le intenzioni erano buone. Quello stesso mese uscì il primo numero di Protesta Umana, bollettino del Comitato di Difesa Sacco Vanzetti, il quale si apriva con questo titolo a piena pagina: mentre si approssima il giorno dell'esecuzione, i reclusi ammoniscono, la salute è in voi. Un anno dopo, il 10 maggio 27, la polizia intercettava in un ufficio postale di Boston un pacco bomba indirizzato al governatore Fuller. 6 agosto, 3 giorni dopo che la domanda di grazia era stata respinta da Fuller, il governatore, 3 attentati colpirono contemporaneamente la metropolitana di New York, una chiesa di Filadelfia e l'abitazione del sindaco di Baltimore. 9 giorni dopo, il 15 agosto, La famiglia di Lewis McCurdy, uno dei giurati forcaioli del processo di Dedham, venne sfrattata di casa da un potente ordigno. Non ci furono né vittime né arresti. Il 28 agosto, 27, si tennero i funerali di Sacco Vanzetti, a cui parteciparono migliaia di persone. Però, un dettaglio, lungo il corteo funebre spiccava una composizione floreale con una scritta in italiano: aspettando l'ora della vendetta. E la vendetta per quelle due morti ci mise 9 mesi per dare i suoi frutti. Il 17 maggio 28 una bomba esplose a Richmond Hill, New York, contro l'abitazione del boia Robert G. Elliott, il quale rimase purtroppo incolume. 5 anni dopo, 27 settembre 32, fu finalmente la casa del giudice Thayer a venire distrutta. Terrorizzato, Thayer si trasferì all'interno di un club e lì rimase fino alla morte, appena 7 mesi dopo, sotto protezione di una guardia del corpo e della polizia. Conclusione: non ci sono innocenti, non ci sono colpevoli, non c'è nessuna giustizia da esigere, da chiedere, da aspettare, c'è la guerra sociale con le sue parti che si fronteggiano e i suoi caduti da vendicare. Era appunto questo articolo del 2017 che si intitolava Aspettando l'ora della vendetta, e direi che mi fermo qui. Intanto stiamo ascoltando questa band danese, loro sono i The War Goes On, band che si è formata circa 15 anni fa e questo è il loro album datato 2022 che si chiama Discount Hope. Loro appunto, come già detto, The War Goes On. Turn into the game, stay clear, this is a catch-up, folks, with the midterm. Sì, quindi la salute è in voi, in questa seconda parte della trasmissione. Intanto vogliamo dare esprimere solidarietà nei confronti dei detenuti del carcere di Udine, di Via Spalato, e di tutti i detenuti, e in particolar modo oggi di quel detenuto che si è diciamo ribellato all'interno della struttura, e prima minacciando di tagliarsi con una lama e poi dando fuoco al materasso aiutato sembra dal suo compagno di cella. Comunque questo ha creato insomma momenti di tensione all'interno della struttura carceraria. E ricordiamo che in Via Spalato ci sono imprigionati 173 uomini e contro 90 posti regolamentari, per dare l'idea della condizione insomma che è comune in tutte le gallerie italiane, ma per dare l'idea anche qui nella provincia friulana di quali sono le condizioni. I poliziotti, naturalmente il sindacato di polizia insiste insomma con i suoi piagnistei, dice che ci sono stati tre poliziotti intossicati dal fumo che hanno insomma prodotto dall'incendio, appunto, e eroicamente per salvare i due prigionieri appunto implicati, e gli stessi poliziotti, perché di queste rivolte, di queste vicende che accadono nelle galere, parlano regolarmente i sindacati di polizia, una roba insopportabile. Comunque citano dei dati del DAP che riguardano Udine, che parla, il DAP parla di nell'anno 2024 44 forme di resistenza o ingiuria e una protesta collettiva con battitura, quindi tutte forme di autodifesa che i detenuti, forme di lotta e forme di autodifesa appunto che i detenuti mettono in scena, appunto mettono in atto per rendere meno provare a rendere meno drammatica la loro situazione o comunicare anche verso l'esterno il loro disagio. E quindi solidarietà e vicinanza ai detenuti di Udine. Tra l'altro questa cosa è successa tra mercoledì e giovedì, cioè quindi tra ieri e oggi, ed è scoppiata una rivolta con incendio anche a Roma, Regina Coeli, anche qui praticamente nell'ottava sezione. Qui c'è stata una rivolta corposa di circa 100 detenuti che hanno fatto esplodere le bombolette di gas da campeggio e quindi hanno dato fuoco insomma a una parte, tra l'altro una sezione che non era stata toccata in precedenza da rivolte, mentre un'altra sezione, la settima, era appunto stata già toccata da una rivolta importante, in quanto in quella sezione si era ucciso un recluso e a Regina Coeli si sono già uccise tre persone dall'inizio dell'anno, dei 76 suicidi in tutta Italia. E anche Regina Coeli, ricordiamo i numeri che sono spaventosi, cioè ci sono 1160 detenuti, che già è una gabbia gigante per tutto questo numero altissimo di persone, a fronte di una capienza di 628. Ritorniamo, tutto ciò è distopico, dicevo all'inizio che affrontiamo questo discorso della distopia autoritaria, di questa sorta di gigante Gotham City in cui siamo ci troviamo a vivere. Allora, queste carceri sono queste luoghi di reclusione sono in quanto tali delle distopie e delle realtà distopiche e delle realtà di tortura. Allora, ritorniamo un attimo al decreto sicurezza. La scorsa settimana, anche grazie al contributo del compagno che ha telefonato insomma per approfondire un po' questo decreto legge, si diceva che Oltre ad essere la materializzazione della guerra interna, quindi siamo in guerra, c'è una guerra esterna e bisogna anche portare questa guerra internamente in modo da ammutolire, diciamo, e blindare, bloccare, costringere la popolazione in modo che non si ribelli, che non si opponga alla situazione. E quindi, oltre a questa materializzazione della guerra interna, dicevamo che questa, la repressione con questo decreto sicurezza, diciamo che diventa, si perfeziona come una tecnica di governo. E io stasera volevo dire due robe sulla, sul ruolo, rispetto a questa tecnica di governo, sulla, sul ruolo che vengono ad avere le forze dell'ordine, le forze armate, insomma tutti i corpi dello Stato che in qualche maniera sono armati, addirittura anche i vigili del fuoco, perché i vigili del fuoco comunque fanno riferimento al Ministero dell'Interno e quindi sono di fatto militarizzati, anche se diciamo io mi ricordo che quando c'era la Pantera, gli universitari, c'era uno slogan che diceva rispettiamo solo i pompieri, perché in, in qualche misura non c'era questa, non c'è questa connotazione militarista estrema. Comunque il ruolo di questi, di queste forze armate, praticamente questo decreto sicurezza contiene tutta una serie di misure di tutela delle forze di polizia. Infatti si parla sì di diritto penale del nemico, e il nemico siamo noi, ma si parla anche di diritto penale dell'amico, e l'amico appunto sono gli sbirri di tutte le i corpi. E queste misure di tutela delle forze di polizia, che vanno dall'incrementare le pene appunto per resistenza eccetera di un terzo rispetto a, a quello che è adesso, ha insomma tutta una serie di appunto aggravamenti, diciamo, dei reati per chi attacca la polizia, ma queste forme di tutela vanno anche consistono anche in spese legali, si accennava la scorsa settimana ai pubblici ufficiali per crimini commessi nello svolgimento delle loro funzioni, e si va da, cioè praticamente hanno diritto questi corpi armati, tutti i corpi armati hanno, avrebbero diritto, se questo decreto sicurezza passa al Senato, a, ad avere coperte le spese legali per un importo di 40.000 euro, cioè 10.000 euro per ogni grado di giudizio. E questa cosa, questa forma di tutela serve a sollevare appunto le forze dell'ordine da possibili conseguenze di un uso eccessivo della forza, ad esempio, no? Perché crimini commessi nello svolgimento delle loro funzioni, cioè non è che ce n'è tanti, sono quelli lì. Sì, poi dopo c'è il discorso che si affrontava anche la scorsa settimana delle servizi segreti, degli agenti, diciamo, sotto copertura, di ciò che possono fare impunemente, anche appunto con, sì, esercitando coercizione, violenza, eccetera, di quello che possono fare i militari in missione, ma non è una novità, dell'impunità dei militari in missione, sempre con questa appunto impunità. Ma allora, queste misure di tutela delle, delle polizie e forze armate, da alcuni avvocati, insomma, particolarmente così, che hanno particolarmente a cuore questo discorso della, della repressione, e che sono compagni comunque, lottano contro la repressione anche loro con i loro mezzi, parlano di un tentativo di fidelizzare la, appunto le forze armate, cioè di una casta armata fidelizzata come figure privilegiate all'interno della società, e cioè mettono il dito su questo, cioè mettono a fuoco questo, questo concetto, che questa fidelizzazione della casta armata va anche al di là dei singoli governi, cioè nel momento in cui lo Stato crea questa fidelizzazione, questa casta armata fidelizzata, può anche cambiare il governo, ma la casta armata fidelizzata rimane, questa non è una novità, nel senso che anche nel passaggio, diciamo, dalla dittatura alla Repubblica, le forze armate e i corpi di polizia sono rimasti al loro posto, no? I fascisti sono rimasti al loro posto, poi sono morti per questioni magari sì, naturali, di morte naturale, ma diciamo i successori, comunque si è creata una successione, no, negli anni in continuità. Però questa la svolta, diciamo, di questo decreto sicurezza qua fa un salto ulteriore, no? Da come una sì, è come un'accelerazione, diciamo, che bisogna tenere in considerazione, cioè non minimizzare, cioè non è solo una continuità, è anche un salto. E che gente è questa gente qua, questa casta armata fidelizzata? Che gente è? Allora, su questo, oltre a quello che ho detto dei sindacati di polizia, questa roba, questi tormentoni, a parte che ce n'è 100.000 sindacati di polizia, allora, per così, così tiro fuori un fatto che è successo, un fatto che è successo a Cuneo. Allora, praticamente a Cuneo, Cuneo è un carcere punitivo, c'è anche una sezione di 41 bis, quindi insomma è un carcere duro. Allora, che cosa succede? Emerge, praticamente c'è questa, come si dice, procedimento, insomma, a carico di polizia penitenziaria, che ha inflitto delle torture a un detenuto, insomma, comunque l'accanimento era verso un gruppo di detenuti pakistani, ma poi nello specifico c'è stato questo accanimento molto duro su un detenuto. Queste torture nel carcere di Cuneo sono state coperte da adesso insomma sono indagate, ma c'è un direttore, e questo direttore si chiama Minervini. Questo si chiama Domenico Minervini. Questo direttore è stato direttore alle Vallette, dove era stato denunciato per non aver impedito, sanzionato le torture di cui era a conoscenza, ed è stato condannato per non aver denunciato questi episodi di tortura a 300 euro di multa. Cioè, come se lui avesse fumato, praticamente, appunto, dove è vietato fumare. Però, appunto, lo trasferiscono da Torino a Cuneo, e lui a Cuneo, e a Cuneo succedono questi episodi di tortura. E inoltre, questo signor Minervini Domenico era direttore anche ad Asti 20 anni fa, quando le squadrette, c'era questa squadretta punitiva che aveva fatto lo scalpo a un detenuto. E questo è per dire la continuità, no? Cioè la carriera della casta fidelizzata. E una cosa che mi ha colpito molto di Cuneo è che poi evoca anche, appunto, torture, diciamo, degli anni 80. Questa squadretta a Cuneo ha utilizzato per torturare questo prigioniero uno strumento privato, cioè una specie di taser, che però non è un taser, una pistola a luce, viene chiamata, che dà la scossa, che questa squadretta aveva acquistato privatamente e che ha utilizzato non durante l'ora di servizio, ma quando il servizio loro era concluso, e quindi in abiti civili, e come punizione per aver effettuato una battitura per chiedere aiuto, cioè per chiedere un intervento sanitario per un loro connazionale che non veniva visitato. Cioè, questi qua, questi pubblici ufficiali, finito di lavorare, si sono rivestiti da persone civili, anche se, e hanno utilizzato uno strumento privato per fare queste torture. Sì, questo, appunto, ci dà questo fatto, che è un fatto, non è l'unico che succede, è un fatto che è emerso, per fortuna è emerso in maniera anche così cristallina, quindi è paradigmatico, diciamo, e giustamente dà la percezione, ci dà l'idea di che cos'è l'ambiente lavorativo dentro il carcere e di che cosa sono, di che cosa scatta, di che cosa sono le dinamiche di potere, insomma, che vengono esercitate dai secondini. E, sì, ecco, questi qua sono esponenti appunto della casta. Da fidelizzare. E, poi rispetto a questo, a quello che si diceva anche prima, che diceva prima chi mi ha preceduta, relativamente al discorso che non è che queste sono mele, cioè sono mele marce o sono soggetti che sbagliano, no? Questo è, sono, cioè è il sistema, diciamo, sono esponenti di un sistema che non può che essere così. E rispetto anche, ritornando al discorso del decreto sicurezza, ad esempio, un esempio di questo è che alcune forze politiche, diciamo cosiddette di opposizione, che in questi giorni si sono espresse contro il decreto sicurezza, fanno parte di queste forze, anche il Movimento 5 Stelle fa parte. Ecco, il Movimento 5 Stelle è quello che praticamente ha fatto la proposta di estendere il 41 bis a livello europeo contro le mafie e sta lavorando a un disegno, insomma una roba loro lì, per aumentare e semplificare la collaborazione e semplificare le procedure di collaborazione tra le polizie che compongono i 27 stati dell'Unione. Quindi questa gente, evidentemente questi politici manettari a livelli spaziali, ma comunque l'abbiamo visto anche quando erano al potere loro, cioè è ovvio che non si può dare nessuna credibilità, nessun credito, non si può credere che questi democratici, questi onesti democratici manettari possano sinceramente essere contro il decreto sicurezza, no? E forse contro questo perché non l'hanno fatto loro, ma sì, è un problema proprio di classe politica, insomma, non si può affidarsi in nessun modo alla classe politica per evitare che ci sia questo perfezionamento del Gotham City, ma bisogna lottare cioè dobbiamo lottare noi, non si può fare altro, dobbiamo lottare noi e, appunto in ogni contesto. Boh, magari adesso mettiamo un po' di musica e poi concludiamo. We'll be right back. E direttamente, più o meno direttamente, dal 1984, da questo 7 pollici split uscito qui in Friuli, grazie alle due band Warfare e Upset Noise, ci stiamo ascoltando appunto i triestini Upset Noise. Sì, così per concludere questa, la Galleria degli Orrori, parliamo di edilizia carceraria, perché e facciamo anche qualche numero, cioè perché purtroppo sono milioni di euro. Praticamente il governo Meloni ha stanziato 166 milioni di euro per ristrutturare le galere esistenti e altri 250 milioni per nuove costruzioni e per creare per nuove costruzioni, per nuove galere praticamente. Hanno nominato per questa, per gestire questi 250 milioni di euro, un commissario che si chiama Doglio, che ha questo pedigree, questo, come si dice, curriculum. È stato responsabile della direzione immobiliare della Cassa Depositi e Prestiti, direttore finanziario di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, manager della finanza di Autostrade, alla faccia, no? E, praticamente loro vogliono con questo piano, quindi tutto il discorso del sovraffollamento, cioè è stato tanto pompato il discorso del sovraffollamento, che è oggettivo, ma è stato pompato per dare là a questa costruzione di nuove galere e quindi a aprire il discorso anche della privatizzazione. Loro vogliono recuperare 7.000 posti, praticamente di 10.000, 10.000 sono le persone, diciamo, detenute che sforano la capienza delle case circondariali attuali, e vogliono recuperare 7.000 posti contemporaneamente. Con questo decreto sicurezza, la carcerazione, cioè, e con altri decreti Caivano eccetera, la carcerazione è inevitabile, sarà sempre più inevitabile per tutta una serie di reati, quindi ci saranno più carcerati in realtà, no? Quindi avanti con le speculazioni edilizie oltretutto. Entro il 2025 sono previste nuove strutture a Viterbo, Civitavecchia e Nola, a San Vito al Tagliamento, con la costruzione di un nuovo carcere. C'è un investimento di 19 milioni di euro per San Vito al Tagliamento. Sono anni che si parla di San Vito al Tagliamento, io direi almeno 10, però era sempre, lasciavano in sospeso. E loro vorrebbero appunto creare un carcere da 300 posti a San Vito, che serva tutta la regione. E a Tolmezzo anche, hanno stanziato dei soldi, 1.000.000 e rotti di euro, per recuperare 30 posti detentivi attualmente inagibili. Quindi loro li vogliono riempire, no? Cioè loro le gallerie le vogliono riempire, le vogliono costruire, vogliono speculare e poi le vogliono riempire per togliere di mezzo tutti quelli che non gli vanno bene. E c'è, poi c'è un tale di cui è stata, si è parlato, io mi pare che si chiama Salmastro, non mi ricordo mai il nome, comunque ha un ruolo, è sottosegretario alla giustizia, che dice: è la dimostrazione che non serviva uno svuota carceri, ma un piano di edilizia penitenziaria che solo in seguito possa consentire di assumere provvedimenti clemenziali per scelta e non per necessità. Sì, questo è quello che ha la memoria, che ha una memoria prodigiosa, prodigiosa. Bene. Niente, siamo agli sgoccioli. Siete sempre su Zardins Magnetics, se non l'avete, se non l'abbiamo detto sufficientemente. È appunto curato dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Siamo su Onde Furlane, che è l'emittente che ci ospita. Siamo in diretta e in verità c'erano anche altre cose che oggi si voleva, ma comunque non importa. Cosa tira cosa, insomma, le affronteremo nel corso del prossimo giovedì. E intanto un saluto. Bene, allora questo brano che abbiamo ascoltato è sempre tratto dal Sette Pollici degli Upset Noise Band di Trieste, che fece uscire nel 1984, ben 40 anni fa, assieme ai Warfare Band di Gorizia. Ora ricordo che siamo ovviamente giunti al termine per questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui da studi di Radio Onde Furlane. Abbiamo pochi minuti a disposizione e ovviamente ricordo che la trasmissione viene ricondotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, e come ogni giovedì anche oggi 26 settembre 2024, vi leggo i nostri contatti se volete appunto scriverci tramite posta elettronica. Potete farlo scrivendo alla mail liberetutti@autistiche.org. Ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure potete farlo in forma cartacea scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121. Ricordo che questa trasmissione è quella delle volte scorse, potete riascoltarle andando ovviamente sull'internet cercando zardismagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardismagneticsradio.noblogs.org. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì. Salutiamo anche chi ci ascolterà domani in replica sulla web radio Radiazione alle ore 17, e vi lascio con un ultimo brano sempre di questi Upset Noise, da questo loro disco datato 1984, col bellissimo titolo che è Vi Odio.